GR Europa. Il sistema europeo di quote CO2 ETS, il cosiddetto diritto di inquinare pensato per finanziare la conversione alle energie non fossili, rischia di morire questa settimana a Strasburgo, ucciso dalla crisi che ha ridotto la produzione e dall'opposizione della grande industria contraria a interventi che aumentino i costi della CO2. L'allarme lo hanno lanciato liberali, democratici e verdi in vista del voto di domani nella plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. E ritorniamo a parlare di vino dopo la settimana del Vinitaly, dove sono state raccolte notizie e anche dati confortanti e in controtendenza del settore vitivinicolo appunto rispetto al resto del Made in Italy. L'europarlamentare della Lega Nord, Giancarlo Scottà, denuncia però il ruolo dei regolamenti commerciali UE, dice l'Unione sfavorisce i piccoli produttori. I produttori piccoli, diciamo produttori che hanno delle cantine che vorrebbero pubblicizzare e commercializzare il loro vino, hanno grosse difficoltà quando incontrano dei turisti che vanno da loro, assaggiano il vino, è un vino buono, possono portare via delle bottiglie, però quando magari volessero riordinare delle bottiglie, il piccolo produttore si trova in grossa difficoltà perché non riesce a spedire questi piccoli quantitativi ai suoi clienti per un discorso burocratico e complicato, con prezzi che salgono e quindi non diventa più competitivo. Il più delle volte rifiutano di mandare questi vini a questi clienti che... a questi turisti, chiamiamoli così, che erano passati da loro. Senta, qual è la soluzione che lei propone? Semplificare maggiormente, diciamo, il pagamento di queste accise attraverso un terzo elemento, che non sono le piccole aziende, ma coloro che commercializzano già questi prodotti all'estero per grandi realtà. Un'eliminazione della burocrazia, ecco. L'intervista è stata realizzata da Valentina Furlanetto. E ancora, i cittadini croati ieri sono stati chiamati per la prima volta alle urne per eleggere i loro primi 12 eurodeputati, preludio all'adesione del paese all'Unione Europea che avrà luogo ufficialmente il prossimo 1 luglio. Secondo i risultati ufficiali quasi definitivi, la coalizione formata dai conservatori di HDZ ha ottenuto 6 seggi, mentre altri 5 sono andati al Partito Socialdemocratico al potere. Un dato però su tutto, quello dell'affluenza alle urne, solo il 20,79%, un dato ben al di sotto della media europea, 43%, così come al di sotto del 44% registrato per il referendum sull'adesione all'UE nel 2012. E con questo per GR Europa è tutto, torniamo come sempre domani poco dopo le 15.